Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Avremo il nostro ospite fra poco, il mitico presidente dell'ANAS e amministratore delegato dell'ANAS Pietro Ciucci, di cui abbiamo parlato, era al primo posto nella nostra classifica venerdì scorso per il famoso... per la famosa liquidazione senza preavviso che Ciucci stesso avrebbe dato a se stesso in quanto direttore generale dell'ANAS, a 780.000 euro, se non ricordo male il valore della 779.000 della liquidazione ottenuta per un'indennità di risoluzione senza preavviso. La cosa un po', diciamo, singolare è che è strano che il Pietro Ciucci, amministratore delegato e presidente, non abbia avvisato il Pietro Ciucci, direttore generale, che stava per non essere rinnovata la sua carica. Ne parleremo, parleremo anche dell'ANAS e di alcune vicende che la stanno coinvolgendo, a partire dal consiglio di amministrazione decapitato, nel senso che due membri su tre hanno rinunciato. Dopodiché invece la vicenda che riguarda World Duty Free, ossia il fatto che il 50,1% di World Duty Free dalla Benetton va a Dufry e alla Svizzera Dufry, hanno venduto infatti i Benetton edizione schema 34 di Benetton, hanno sottoscritto accordi vincolanti con Dufry per cedere al gruppo svizzero il 50,1% in World Duty Free. Prezzo di vendita 10,25 euro per azione, con un incasso per schema 34 pari a 1,3 miliardi di euro. Il titolo oggi precipita in borsa perché si sta portando sui livelli dell'offerta, infatti anzi è anche andato un po' sotto, perché partiva da 10,96 euro, adesso è a 10,05 euro, il valore è 10,25 euro, comunque meno 8,30%. Visto che parliamo di borsa, sul fronte opposto invece Jux, che ha precisato che sono in corso discussioni con Compagnie Financière Richemont per un possibile business combinato tra Jux e The Net-a-Porter Group, la borsa festeggia ampiamente, più 9,40% il titolo in questo momento. E dopodiché troviamo ST Microelectronics più 3%, Mediaset più 2,60, UBI più 2,30, Mediobanca più 2,20 come Buzzi, Unicem e Salvatore Ferragamo, ma anche Intesa San Paolo. Il 2% lo guadagna Unicredit, l'1,60 Exor e anche Fiat Chrysler, Prismian più 1,5, Autogrill più 1,20, Enel più 1,1, G-Tech più 1%. Tra chi cede, oltre a World Duty Free, Tod's l'1,20%, Enel lo 0,20%, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Radio 24 per interagire sia con Facebook che con Twitter. Le altre notizie in breve. Per quello che riguarda le altre notizie di questa giornata, resta aperto il fronte greco, ma le proposte della Grecia al cosiddetto patto di Bruxelles, Brussels Group, che ha preso il posto della Troica, il gruppo di Bruxelles, arriveranno in tarda serata. Questo dovrebbe garantire l'erogazione di finanziamenti da 7,2 miliardi di euro, anche perché Atene entro il prossimo 9 aprile deve pagare 450 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Non vi è una lista, sostengono fonti europee, ma un insieme di pezzi di carta, lamentano alcune discrezioni europee l'incertezza presente in queste misure. E un articolo analogo è presente oggi sul Wall Street Journal, che, citando sempre funzionari dell'area euro, dice: le proposte greche sono frammentarie, vaghe, e i colleghi greci non sono stati in grado di spiegare tecnicamente cosa comportassero alcune di queste. Angela Merkel oggi ha detto che stiamo lavorando per fare, in Europa immagino, per far restare la Grecia nell'area euro. E Tsipras questa sera alle 20 ora di Atene aggiornerà sullo stato di avanzamento delle trattative appunto con il Brussels Group. Buono il dato di oggi, veniamo all'Italia. Sull'asta di BTP a 5-10 anni, tasse hanno ritoccato i minimi storici, quindi non è mai costato così poco all'Italia trovare sostanzialmente finanziatori per il proprio debito. Il BTP a 5 anni, il rendimento è sceso a 0,55%, il BTP a 10 anni è stato collocato all'1,34% lordo. Per un importo complessivo di 2 miliardi e mezzo, vuol dire che per prestare debito all'Italia per 10 anni è sufficiente dare come interesse l'1,34% lordo. Vedo che c'è già qualcuno che critica il fatto che invitiamo Ciucci, ma perché? Tutti gli ospiti che noi citiamo sono benvenuti per spiegare le loro ragioni. No, questo, su questo non sono d'accordo. Dopodiché le critiche le abbiamo fatte, ascolteremo che cosa da dire Ciucci. Andiamo avanti invece sul il dato dell'Istat di oggi, segnala un balzo in avanti della fiducia delle imprese a marzo. Siamo in massimi dal luglio del 2008, in miglioramento tutti i settori. La manifattura passa da 100,5 a 103,7, è il livello più basso dal 2011. La fiducia complessiva delle imprese è comunque la più alta, ripeto, dal 2008, e anche la fiducia dei consumatori è ai massimi dal 2002. E quindi da 13 anni, in lieve aumento anche le attese future sull'economia. Ora sappiamo che questo dato si scontra con la realtà di tutti i giorni che molti di noi vivono, si scontra con il dato della settimana scorsa su fatturati ordinativi industriali, però faccio notare che secondo la Confcommercio, anche questo dato della settimana scorsa, venerdì scorso, alcuni segnali di una ripresa leggera dei consumi si stanno registrando nel paese. Probabilmente assisteremo nei prossimi mesi a una fotografia a macchie di leopardo, nel senso che alcune cose daranno dei segnali più consistenti, altre freneranno ancora. È indubbio che l'entità di questa ripresa non è forte, è lieve, e quindi noi teniamo assieme il dato aggregato, poi all'interno del quale vi possono essere differenze anche abissali. E il ministro Poletti oggi, a margine della quinta edizione di Tutto Lavoro organizzata da Sole 24 Ore qui a Milano, al microfono della nostra Anna Marino, ha confermato una tendenza positiva in atto, anche se ha invitato all'estrema prudenza. La conferma di un trend che da un po' di mesi si è attivata, e quindi il fatto che questa abbia una continuità, anche se noi sappiamo che le cose in coda ad una crisi tendono a non essere stabilizzate, e quindi è ragionevolmente immaginabile che possa capitare che abbiamo un mese tra virgolette di euforia e magari un momento di caduta, ma siamo in questa fase, quindi il fatto che i mesi di fiducia si stabilizzino nel tempo e si confermino, io credo che sia un elemento che ci dice che questa fase tende al positivo, e quindi è sicuramente un buon segno. E poi Poletti ha anche commentato i buoni dati nei primi due mesi del 2015, c'è stato un ritmo di 150.000 assunzioni a tempo indeterminato al mese, e da marzo, poi quando scatterà il Jobs Act, la velocità potrebbe salire. Per il ministro Poletti non si tratta di dati drogati dall'incentivo previsto dalla legge di stabilità. Faccio notare che sono due cose diverse. Poi ascolteremo una gaffe di Landini clamorosa, perché il segretario della FIOM non può sbagliarsi su una cosa del genere. La decontribuzione vale, è intanto presente in legge finanziaria e non c'entra niente col Jobs Act. Due, vale solo per la legge finanziaria attuale, quindi per il 2015. e quindi dal 1 gennaio 2016 chi assume a tempo indeterminato con il Jobs Act tutte le crescenti non avrà nessuna decontribuzione e vale per 3 anni, ok? Per cui attenzione, perché chi dice che queste assunzioni gennaio e febbraio sono state fatte perché c'era il Jobs Act che permette di licenziare più facilmente, dice una castroneria, perché chi è stato assunto a gennaio e a febbraio, piaccia o non piaccia ai nostalgici del caos precedente, beh, è stato assunto con il vecchio contratto, quindi a tempo indeterminato senza Jobs Act, evidentemente solo perché si volevano sfruttare, quello sì, i 3 anni di decontribuzione. Comunque, Poletti sull'occupazione. Il mese di dicembre abbiamo avuto quasi 100.000 occupati in più, quindi se ci fosse stata una attesa per gennaio e febbraio non si spiegherebbe perché in dicembre abbiamo avuto un numero di assunzioni certificate dall'Istat più di quello che prevedevamo. Ma detto questo, il tempo ci dirà se c'è un po' di attesa, ma questo è possibile, ma io credo che tendenzialmente il numero degli avviamenti si consoliderà, quindi credo che questo dato comunque vada letto in termini positivi, perché al di là del valore assoluto noi abbiamo un dato molto importante per quello che riguarda i contratti stabili, i contratti a tempo indeterminato, e questi sono indiscutibilmente 80.000 in più di gennaio e febbraio dell'anno prima, quindi da questo punto di vista poi vedremo se sono nuovi contratti, se sono trasformazioni di contratti in essere, però siccome il nostro obiettivo è avere e riportare il contratto a tempo indeterminato come il contratto, il modo normale di assunzione nel nostro mercato del lavoro, sarebbe comunque un grande successo se si consolidasse un dato di trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Quindi cifre in aumento, dovrà essere rifinanziato questo incentivo? Ma con un robotuto potrei dire me lo auguro, perché noi abbiamo una previsione molto importante, parliamo di 1 milione di contratti nuovi o convertiti, quindi sarebbe, io credo, un grandissimo successo se si raggiungesse questo obiettivo. Qualora dovessimo superarlo, beh, sinceramente vorrebbe dire che abbiamo colto pienamente nel segno. Allora, su questo, attenzione, i soldi di cui parla il ministro Poletti sono quelli per il 2016 e poi 2017, cioè in finanziaria la legge ha previsto che per chi assume entro il 2015, non a tempo indeterminato, i contributi li paga lo Stato, fino a sgravi che possono arrivare fino a un massimo di 8.060 euro all'anno a persona. Per ora di finanziati, di come sgravi finanziati, ci sono solo quelli del 2015, quindi poi il governo dovrà trovare i soldi per il 2016 e per il 2017, ma nulla c'entra col Jobs Act che introduce il contratto a tutele crescenti. Uno la può pensare come vuole, può pensare che siano stati lesi dei diritti che comunque questi lavoratori prima non avevano, visto che stiamo parlando di CocoPro, partite IVA, tempi determinati, cioè il paradiso prima io non l'ho, il paradiso perduto, il paradiso distrutto io non l'ho visto, ho visto una grande giungla prima, creata anche da varie riforme un po' strampalate del mercato del lavoro, e il tentativo di uniformare. Detto questo, uno la può pensare come vuole sul Jobs Act, ci mancherebbe, ma non può confondere quello che il governo ha deciso nella legge finanziaria che vale dal 1 gennaio con il Jobs Act che è in vigore dal 1 marzo. Lo fa invece, ed è quanto mai grave vista la carica che ricopre, il segretario generale della FIOM Maurizio Landini. Non me ne frega nulla dell'impegno politico di Landini in questo momento. Sentite questo passaggio alla 7 con Mirta Merlino, nell'area che tira, in cui Landini nega, o meglio dice, che gennaio e febbraio i dati si sono ottenuti solo perché le aziende hanno assunto col Jobs Act. Peccato che il Jobs Act non fosse ancora in vigore, ma la decontribuzione sì. Che finalmente riprendono delle assunzioni, io non sono che contento. Faccio semplicemente notare che se sono assunzioni a tempo indeterminato, come viene detto, fatte a gennaio e febbraio, non c'entra nulla il Jobs Act perché è entrato in vigore dal 1 di marzo. Secondo, no, se non hanno cambiato legge, i nuovi sgravi sono fatti dal 1 di marzo in avanti, a meno che non siano retroattivi, che in questi giorni l'abbiamo fatto, a me non risulta. Però abbiamo trovato la legge, la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 23 dicembre 2014, diviene operativo dal 1 gennaio 2015 il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Se così è così, punto, non cambia un granché. Lei non lo sapeva che c'erano le contribuzioni dal 1 gennaio? No, io ero rimasto che siccome l'hanno approvato il 7 di marzo, no, che no, partiva, è approvato da gennaio che le aziende stanno assumendo, Dio, Landini, non come stanno, fai a non saperlo, cazzo? Ma non diciamo cavolate. E la voce in sottofondo che sentiva era quella di Chicco Testa. Obiettivamente, ma Landini, ma come fa a confondere l'approvazione del Jobs Act dal primo di marzo con l'approvazione della legge finanziaria dal primo di gennaio della decontribuzione, che vale solo per il 2015, mentre il Jobs Act vale per i contratti fatti nel 2015 e si scarica per 3 anni, cioè chi assume a tempo indeterminato nel 2015 entro marzo lo ha fatto col vecchio contratto, quindi Jobs Act non c'entra nulla sui 150.000. Io so che questa cosa dà fastidio a certe vestali della sinistra ortodossa che rincorrono un mondo che non c'è più, ma mi dispiace, è così, sono i dati. Chi ha assunto a gennaio e febbraio ha assunto col vecchio contratto, e che poi l'abbia fatto perché per 3 anni non paghi i contributi fino a un massimo di 8.000 euro sarà verissimo, ma non c'entra niente con il Jobs Act, per cui ben venga un governo che dà una decontribuzione. Non è che i lavoratori non abbiano i contributi, li hanno pagati da noi, infatti la manovra vale, se non ricordo male, 7 miliardi di euro in finanziaria, non vale poco quest'anno, ne devono trovare altre 7 l'anno prossimo e altre 7 nel 2017. Però vedete, quando l'ideologia cieca, manco vai a studiarti la legge a capire che cosa è successo. Comunque. Torniamo su alcune notizie. Anzi, la notizia che ha vinto al primo posto della nostra poco invidiabile classifica venerdì. E mi riferisco a quella che riguardava il presidente, amministratore delegato dell'ANAS, Pietro Ciucci, che è in collegamento con noi. Buonasera, presidente. Buonasera a lei. Con quale Pietro Ciucci sto parlando? Col presidente, con l'amministratore delegato, con il direttore generale licenziato? Perché sa che insomma la cosa che ha fatto molto discutere, poi arriveremo anche al consiglio di amministrazione, è l'idea, o meglio, il fatto che quando lei si è licenziato come direttore generale, da quello che non risulta, avrebbe preso l'indennità di risoluzione senza preavviso pari a 779.682 euro perché il Pietro Ciucci, presidente e amministratore delegato, non l'aveva avvisata in tempo. È un caso di sdoppiamento di personalità o cosa? No, guardi, di Pietro Ciucci ne esiste soltanto uno, ovviamente. Pietro Ciucci, che per la carica, come previsto dal nostro statuto, ha la carica di presidente con funzioni di amministratore delegato, che vuol dire che è un potere, che è un presidente con poteri operativi, mentre, come sai, in altri casi c'è un presidente e un amministratore delegato con i poteri operativi. Non c'è stato nessuno sdoppiamento di personalità. Pietro Ciucci è stato un dipendente di ANAS, un dirigente dipendente di ANAS con un contratto a tempo indeterminato stipulato ormai lontano 2006. Sulla base di un contratto negoziato e definito non direttamente da me, ma da un consigliere d'amministrazione incaricato, definito insieme con il Ministero azionista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in questo contratto, per farla breve, prevedeva, in caso di risoluzione del contratto stesso, due annualità, un incentivo pari a 2 annualità di stipendio. Per la precisione e per fare un riferimento puntuale, si è detto si applicano gli stessi criteri che il contratto di lavoro prevede per due istituti che sono tra di loro antitetici, cioè il preavviso e la risoluzione consensuale. Ma questo con riferimento, per relazione, ma si dice in questi casi, per dire con quali conteggi, in quale modalità si calcolava questo importo. E questo è avvenuto ad agosto del 2013. Il mio azionista mi ha chiesto di risolvere il rapporto di lavoro con l'intenzione di nominarmi presidente, ma non più dipendente della società, cosa che io ho fatto, e ovviamente è stato applicato il contratto. Nessuna dissociazione, nessun colloquio tra me e me, ma soltanto l'applicazione di una clausola contrattuale che è diffusissima nei contratti dei vertici aziendali. E recentemente, senza dire nome e cognomi, c'è stata la notizia, riportata da tutti i giornali, di un'indennità ben più significativa per una posizione di vertice di un'altra grande società pubblica. E qual è, mi scusi? Ma guardi, non è mia... Ma tanto sei sui giornali, così capiamo tutti. Ma è un nome di una società nota, ma io lo citavo questo fatto per dire che era previsto negli standard contrattuali dei vertici aziendali, che non sono inamovibili come a volte si può dire, ma che ogni 3 anni possono essere rinnovati o non rinnovati, no? E che quindi non è la stessa posizione di un qualsiasi lavoratore a tempo indeterminato. Salvo giusta causa, salvo cosa. Sì, no? Però lei, diciamo, nel merito, Ciucci, il fatto che insomma, sì, lei lavora da tantissimi anni all'ANAS, 45 anni, era già a 19 era già una società dello Stato, però chiedo, il fatto che uno poi venga nominato di presidente e amministratore delegato, secondo quanto lei ricordava, la funzione doppia in ANAS, è normale che uno riceva anche una buona uscita pari a quella che è, come lei ci ricordava, l'indennità di risoluzione senza preavviso, cioè che è una tutela che viene data al dipendente quando non ti preavviso, ti devo dare delle indennità, da domani sei fuori ti pago in questo caso erano 2 anni, in altri casi sono 13 mesi, 14 mesi, però in questo caso lei andava a occupare un ruolo apicale, presidente e amministratore delegato, cioè non è la stessa cosa che dire a un dirigente da domani sei fuori e siccome te l'ho detto senza preavviso ti do, come prevede la legge, in questo caso vostra, il contratto 2 anni di stipendio, no? Ma lei ritiene che un rapporto di amministrazione, come si dice in questo caso, e un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia la stessa cosa? Perché lei conosce quali sono le, senz'altro conosce quali sono le diverse garanzie, i diversi istituti, il diverso valore del. I diversi stipendi anche, no? Anche diversi stipendi, certo, perché io avevo un contratto che prevedeva un certo tipo di trattamento economico, la nomina presidente determinava una riduzione significativa di quel contratto, oltre il 50%. E non è che qualunque numero lei fissi come stipendio non è la stessa cosa. Vabbè. Se lo riceve comunque, ho capito, lei ha preso questi 780.000 euro che erano nella fattispecie equivalente all'indennità di risoluzione senza preavviso, però non è sto lei a non preavvisare se stesso, ma è, diciamo, quello che avete pattuito con l'amministrazione dell'ANAS, tutto legale si intende, poi l'opportunità è un'altra cosa. A questo proposito, Ciucci, che effetto le fa essere considerato tra virgolette l'ultimo boiardo di Stato, come titolano molti giornali, cioè lei era in società autostrada a 19 anni, poi ha fatto Cofiri, Alitalia, Rai, Stet, Finmeccanica, Comit, Credit, un passaggio in Banca di Roma, SME, Autostrade, Aeroporti di Roma e poi nel 2002 anche la società Stretto di Messina con Berlusconi, poi Prodi la riporta a capo dell'ANAS nel 2006. C'è anche la regola che dopo 3 mandati si va a casa, messa da Renzi, lei sarebbe al terzo, c'è chi dice che sarebbe al quarto, avendo fatto anche il ponte sullo Stretto di Messina. Ma dico, come ci si sente essere l'ultimo boiardo di Stato? Ma guardi, il termine boiardo poi a volte viene usato in un'accezione negativa, non mi sento un boiardo in quel senso. Comunque ci sono, lo stesso titolo è stato attribuito a manager di grande rilievo che forse in molte occasioni averseli in questo momento per superare la difficile situazione economica in cui siamo. Non sono certo l'unico che ha mantenuto una posizione per 3 mandati o più mandati, ed è facile anche per lei verificare questa mia affermazione. Normalmente si viene confermati in un incarico se l'azionista apprezza i risultati che hai realizzato e continua a darti fiducia, ma non c'è inamovibilità. Ogni 3 anni, questo vale per tutti, c'è un'assemblea che ti deve riconfermare e riconferire, se del caso, i poteri. Io credo che, avendo lei ricordato come diversi governi con diverse situazioni politiche hanno ritenuto di confermarmi la fiducia, e che questo possa essere considerato non una colpa ma un elemento positivo di apprezzamento, e che testimonia come io non sia un politico schierato ma sia un tecnico che qualcuno ha pensato che abbia operato bene. Ma quindi secondo lei è sbagliata la norma che ha messo Renzi, che dopo 3 mandati si va comunque a casa, è antimeritocratica? No, io non ho detto che è sbagliata, ho detto che comunque è una regola che non c'era in questi termini prima che il presidente Renzi la introducesse. È una regola che comunque fissa un tempo limite, ma anche lungo, 9 anni in una stessa società, mi sembra, anche a mio avviso, è un tempo lungo, e non mi sarei io in ogni caso riproposto per un eventuale ulteriore. Ma lei è già in pensione o sbaglio, Ciucci? Io sono in pensione dopo 45 anni di versamenti effettuati. No, no, no, non dico mica è in pensione illegalmente. Ma secondo lei il tema, insomma, il rischio, adesso è troppo facile fare l'esempio con Incalza, però il rischio che... Non vorrei proprio che... Adesso arrivo perché voi siete citati nell'inchiesta Sistema 75 volte. Ma non adesso... il mio nome, guardi, non il mio nome. No, l'ANAS. In nessuna intercettazione, no. In nessun punto di quello... Questo, ma infatti non l'abbiamo mai, detto. Ci mancherebbe, però scusi se l'ho preciso, ma ovviamente chiedo una cosa, però secondo lei non dovrebbe esserci un limite? Io capisco quello che lei dice, il limite dovrebbe darlo l'azionista, e va bene, però poi noi sappiamo che in certi ruoli, soprattutto quando si ha a che fare con gli appalti, i lavori pubblici, la gestione dei lavori pubblici, la gestione dei fornitori e quindi poi anche degli appalti complessivi, il rischio è altissimo. Allora, i carabinieri, non so se lo facciano ancora, ma il maresciallo di stazione ogni 3 anni, mi sembra, cambiava la stazione, e non perché fosse un cattivo maresciallo, ma perché l'arma riteneva, e forse ritiene, ripeto, non conosco se sia ancora in vigore questa norma, che non dovevi sviluppare troppi rapporti personali, interpersonali, per essere super partes. Ecco, un principio del genere non potrebbe valere anche per i grandi manager, soprattutto quando hanno a che fare appunto con sanità, appalti della sanità, infrastrutture, appalti delle infrastrutture? Io sono perfettamente d'accordo con lei e dicevo anche prima che sia corretto e auspicabile una mobilità, no, e un ricambio ai vertici di tutte le aziende. Quello che ho rilevato è che questa possibilità l'azionista l'ha sempre avuta, e che non si può trasformare in una colpa di chi è stato rinnovato in una certa carica più volte. No, ma questo vale per tutti i manager, non è che abbiate occupato, diciamo, note tempore gli uffici. Sono d'accordo con lei. Questa è una scelta della politica, e infatti anche nel caso di tutti i manager se ne assumono le responsabilità i Presidenti del Consiglio e i ministri che questi manager hanno nominato e hanno mantenuto. Veda il caso di Lupi con Incalza, prego. Io sono talmente d'accordo con lei, e tra l'altro lei parlava dell'arma dei carabinieri, ma io, avendo fatto attività di finanza per molti anni, posso citare, no, la regola che riguardava solo nelle banche i responsabili delle agenzie, per dire, no? E noi che come ANAS abbiamo una rete articolata sul territorio e abbiamo diversi compartimenti, direzioni regionali, noi applichiamo, io applico questa regola della turnazione interna degli incarichi, ancor prima che, come lei sa, nel decalogo che riguarda recentemente predisposto dal MEF e dall'autorità anticorruzione per il piano di prevenzione della corruzione, noi in anticipazione rispetto a quello attuiamo la rotazione del personale. Quindi questo per condividerlo. Ripeto, io sono nominato da mio azionista, davanti a una conferma. Non ho capito, ma voi in ANAS applicate la rotazione del personale? Sì, esatto, e così come noi di ANAS abbiamo anticipato le normative sull'anticorruzione, e da un anno abbiamo già nominato responsabile anticorruzione, da mesi c'è sul nostro sito web il piano anticorruzione di ANAS, quindi prima che ci fossero le indicazioni del nostro azionista, e tutto il sito Trasparenza, pur essendo noi, come sa, una società per azioni e non un'amministrazione pubblica a cui quelle norme si riferivano. Applicate, sì, Ciucci, la battuta è facile, la turnazione in ANAS vale per tutti tranne che per lei. Comunque c'è il metro, la pubblicità, poi vorrei parlare, farò anche il mio commento, non posso... In rete stanno lanciando una colletta per lei perché si sono impietositi, però vorrei parlare di quello che sta capitando nel consiglio di amministrazione dell'ANAS, perché la cosa che abbiamo raccontato è sicuramente non opportuna, e glielo confermo, poi è totalmente legale, l'ha chiarita, però si sono dimessi 2 consiglieri su 3, non c'è più un CDA dentro l'ANAS. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, il nostro ospite, il presidente, mi sono legato dell'ANAS, Pietro Ciucci. Vorrei venire al presente e non più, fermo restando che non c'è niente di illegittimo, che abbiamo capito che era un accordo. L'opportunità su certi soldi, la durata di certi incarichi, gliel'ho già spiegata, non voglio andare oltre. Mi dica cosa sta succedendo invece, presidente, al suo consiglio di amministrazione, perché è appena uscita un'agenzia che dice che mercoledì avrete un consiglio di amministrazione per chiedere la convocazione dell'assemblea degli azionisti, che dovrà procedere alla sostituzione dei nuovi consiglieri dopo che si sono dimesse sia Maria Cannata, che gestisce il debito, che appartiene al Ministero del Tesoro da anni, gestisce il debito italiano, che Sergio Dondolini del Ministero dei Trasporti. Insomma, il vostro CDA ha perso i due terzi dei consiglieri, se ben capito, no? Esatto. Ora, ma lei, a lei il sospetto che ci sia qualcosa, nel senso che Maria Cannata dice di essere la donna che gestisce il debito italiano da molti anni, dice di essere troppo impegnata al Ministero del Tesoro, Dondolini dice di essere troppo impegnato al Ministero delle Infrastrutture, ma che vi snobbano, avete scelto i consiglieri sbagliati, c'è qualcosa sotto? No, guardi, le cose che so io sono esattamente quelle che lei ha. Sia la Cannata, la dottoressa Cannata, che l'ingegnere Dondolini, con diverse parole, ma sostanzialmente hanno sollevato una incompatibilità tra il loro impegno di lavoro gravoso e la partecipazione di ANAS, che si finisce con frequenza e che ha, come puoi immaginare, all'ordine del giorno temi molto impegnativi su cui, se uno vuole, come è giusto, svolgere la sua attività di consigliere in maniera perfetta, deve studiare, deve prepararsi, deve dedicare non soltanto due ore o tre ore o quattro ore del consiglio per studiare gli argomenti. Allora c'è una notazione di carattere generale, che il consiglio di amministrazione di una società controllata al 100% dal Tesoro fosse composto in via maggioritaria da dipendenti del Ministero era previsto dalla legge, una legge credo approvata nel periodo del governo Monti, con una esagerata idea di contenimento dei costi. I compensi dei consigli di amministrazione sono compensi modesti normalmente. Parlo dei consiglieri normali, non parlo nel caso del mio particolare. E quindi è evidente come, se si mettono poi nella società dirigenti di alto livello, come è necessario in una società importante come ANAS, come sono le altre società importanti delle partecipazioni statali, questi dirigenti possono avere difficoltà a compensare, a compatibilizzare. No, ho capito, ma insomma, lei non ha nessun imbarazzo in questo momento? Ma in questo momento, dal punto di vista di quello che sono le regole del codice civile, il consiglio di amministrazione, cioè le dimissioni dell'ingegnere Dondolini, non sono operative dal momento in cui verrà sostituito. Questo lo prevede l'articolo, ma se non lo cito a memoria, l'articolo del codice civile, perché ovviamente il codice ha sempre come obiettivo quello di privilegiare la stabilità delle società, non i desiderata dei consiglieri. Senta, e quindi prego. Noi, per completare, io quello che prevede il codice, io ho convocato immediatamente un consiglio di amministrazione che convocherà l'assemblea e l'assemblea nominerà i nuovi consiglieri. Fino a quel momento il consiglio è in pieni poteri, l'ingegnere Dondolini è in carica. Ciucci, però lei è un uomo troppo navigato per non capire che forse qui c'è un messaggio politico, cioè lei non si sente isolato, ha mai pensato a dimettersi? Perché tra le polemiche su, ho capito che era tutto legittimo, però resta forse poco opportuno l'indennità di risoluzione senza preavviso utilizzata come metro per la compensazione del direttore generale, si dimettono due consiglieri su tre, c'è una polemica anche sulla sua permanenza del ruolo, lei ha mai pensato alle dimissioni o ha mai colto dei segnali politici in questo momento che non siano solo gli impegni della Cannata e di Dondolini? Ma io credo che il mio azionista, se avesse voluto chiedermi qualcosa, me l'avrebbe chiesto in un incontro diretto, non credo che ci sia bisogno di messaggi né la dottoressa Cannata né l'ingegnere Dondolini, che hanno deciso per motivazioni tutte personali e non mi sento di mettere in dubbio. No, no, ma nessuno mette in dubbio, dico solo. Io ho detto, ma guardi, io ho detto, forse con un eccesso di retorica, secondo qualcuno, che il mio incarico è tutti i giorni sul tavolo del mio ministro e del mio presidente del Consiglio. Non è che, per, faccio un esempio, dato che il mio incarico attualmente scade formalmente tra un anno, io mi abbarbico e mi aggrappo a questa scadenza formale e resisto, no, come l'ultimo dei Moicano o dei Boiardi. Io ho detto da tempo, ma da sempre, ogni volta che è cambiato un consiglio, ogni volta che è cambiato un governo, il primo incontro col nuovo ministro è sempre stato quello di dire: questo è il mio incarico, decida lei cosa devo fare. Questa è la mia posizione. Io credo che sarei avrei poco senso di responsabilità verso l'ANAS e verso chi lavora in ANAS se mi alzassi e ponessi le mie dimissioni. È il mio azionista che mi deve dare delle indicazioni, cosa che ho chiesto, a parole verbalmente. Mi dica l'ultima cosa, col senno di poi, è stato un errore spendere tutti quei soldi per il ponte sullo stretto, visto che lei è stato presidente della società Ponte sullo Stretto? Cioè, abbiamo speso decine e decine di milioni per la progettazione e poi non se ne è fatto nulla. Ma due cose: uno, il progetto per me è un progetto eccezionale da un punto di vista ingegneristico, che aveva una sua articolazione finanziaria sofisticata e un'attenzione di molti investitori a livello mondiale. Detto questo, visto che poi la decisione se fare o non fare un'opera spetta al governo, se l'idea era di non farla, avrei preferito che fosse stata questa la decisione dall'inizio, il che ci consentì ovviamente di risparmiare lavoro e costi. Al contrario, il governo aveva deciso con leggi, indirizzi di realizzare l'opera e così abbiamo provato a fare il nostro assetto di Messina. Grazie al presidente e amministratore delegato dell'ANAS Pietro Ciucci. Grazie a lei. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nozze. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Ma che commenti, lo dico agli ascoltatori, volete che faccia? Il presidente dell'ANAS Ciucci difende la sua posizione, di illegale non c'è nulla, di inopportuno secondo noi c'è moltissimo, ma di illegale non c'è nulla, no? Dopodiché, insomma, uno ricopre certe cariche anche perché ha determinate bravure, no? minuti, mi scrive un ascoltatore: questa intervista ha rovinato la trasmissione, complimenti, ma l'ha rovinata perché? Adesso, voi sapete come la pensa chi conduce questo programma sulla pubblica amministrazione, sugli sprechi della pubblica amministrazione, però uno è anche libero di difendersi. Adesso non siamo ancora, no, a Robespierre. Detto questo, voglio dire, no, è chiaro che è in grado bene di articolare la sua posizione. Ragazzi, questo è un paese in cui non si dimette mai nessuno, parliamoci chiaro. Si è dimesso il ministro Lupi, è stato un caso abbastanza raro, figuriamoci nella pubblica amministrazione italiana. Dopodiché le dimissioni in questo caso non sono state richieste, non sono necessarie da un punto di vista legale. Poi un'opportunità di dire: ma uno va in pensione, sta con i nipoti, fa altro nella vita, lascia spazio ai nuovi, no? Ma queste sono valutazioni personali, Quanti capi avete, avvocati, imprenditori, commercialisti, notai che sono lì e non mollano la cadrega? Vale anche per le partecipazioni pubbliche. Lì c'è però un onere più forte della politica, perché mentre nel privato uno fa quello che vuole, poi fatti i suoi sull'ufficio, lo studio o l'impresa non funziona, nel pubblico no, gli azionisti siamo noi e la politica per questo deve rispondere quando vi sono delle critiche sulla gestione degli alti dirigenti della pubblica amministrazione. Vabbè, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi io non so di cosa parlerai, perché UX è un approfondimento che faremo dopo. E poi War Duty Free è un approfondimento che faremo dopo, ti resta la parte in mezzo. Basta, vado a casa. No, vai a casa. No, no, aspetta un attimo ancora. War Duty Free meno 8,40%, Jux più 9,96%, sono questi i due casi della giornata. War Duty Free già uscita comunque sulle agenzie, l'uscita, scusatemi un gioco di parole, dei Benetton che cedono il 50,1% della società agli svizzeri, e qui c'è già chi fa il parallelo tra tra quanto è capitato alla Pirelli, quanto è successo a World Duty Free, e invece Jux trattative in corso. Allora facciamo una cosa, visto che Alessandro Paterotti ha commentato i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore con Radio Dimensione Suono proprio sul parallelo Pirelli World Duty Free, ascoltiamo il commento del vice direttore sulle 24 ore. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Due casi che riguardano grandi aziende a controllo italiano continuano a tenere borsa sui mercati finanziari. Da una parte c'è Pirelli, con l'offerta da 7,1 miliardi di euro che gli ha rivolto il colosso cinese ChemChina. Dall'altro c'è World Duty Free, il colosso dei duty free, appunto dei negozi senza tasse negli aeroporti, che è stato messo in vendita e di fatto finalizzata la vendita da parte dei Benetton agli svizzeri della Dufree. Ma che cosa sta succedendo con queste due aziende? Da una parte vediamo il titolo Pirelli, che addirittura ha messo a segno un rialzo del 16% negli ultimi 20 giorni, un po' sulle aspettative di una vendita, un po' poi quando si è concretizzata veramente l'interesse dei cinesi, e che oggi continua a correre, più 10% in borsa. Che cosa si aspetta il mercato? Il mercato, visto l'interesse che i cinesi hanno dimostrato sul colosso delle nostre gomme, si aspettano che un altro concorrente si faccia avanti con un'offerta anche più generosa. Intervistato a livello internazionale, il presidente di ChemChina ha detto: beh, noi manterremo l'integrità della Pirelli, la salvaguarderemo come azienda italiana. D'altra parte, ha detto scherzando, i noodle non hanno niente a che vedere con gli spaghetti, e questo lo speriamo anche noi, visto che appunto Pirelli a livello internazionale si è ormai affermato come un colosso del settore dell'automotive. Per World Duty Free il discorso è diverso. Evidentemente il mercato, che sta continuando ad abbattere e a picchiare sul titolo del World Duty Free, oggi è del 10%, sembra credere che cosa? Che l'offerta degli svizzeri sia troppo bassa, e che quindi, se vuole il consenso della borsa, questa operazione dovrà mettere di più sul piatto. In altre parole, in entrambi i casi sembra aspettarsi che qualcosa di più generoso venga sulle due aziende italiane. Dall'altra parte ci sono reazioni differenti. Morale: quando le aziende italiane valgono, l'interesse del mercato c'è. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Eleonora, resta con noi, c'è GR24, poi commentiamo gli altri titoli della borsa a partire da ST Microelectronics, e poi due approfondimenti appunto su World Duty Free e Jux. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, prima di arrivare ai due casi del giorno, Jux e World Duty Free, il resto della borsa, più 1,20% Milano, più 1% Parigi, più 1,80% Francoforte, più 0,50% Londra, l'America più 1,5%. ST Microelectronics bene, più 3,25%, bene anche Mediaset, più 2,60%, e poi e Buzzi Unice in più 2,40, e poi la pattuglia delle banche: UbiBanca più 2,30, Mediobanca più 2,33, Unicredit più 2,25, Intesa San Paolo più 2,10%. Eleonora. Sì, ci sono altre storie a Piazza Affari. Per quanto riguarda infatti ST, oggi ha registrato un progresso del 3%, ricordiamo era andata bene anche venerdì, in quanto gli investitori scommettono su un consolidamento del comparto dei chip, soprattutto dopo indiscrezioni sulla stampa americana, secondo le quali sarebbero in corso operazioni straordinarie. In particolare pare che Intel stia per rilevare Altera, una società quotata a Wall Street che capitalizza circa 10 miliardi di dollari. Poi per quanto riguarda Mediaset, anche in questo caso l'attenzione ovviamente rimane elevata sui titoli di Mediaset, più 2,6%, in quanto c'è attesa per conoscere l'evolversi dell'offerta di Hightower su Rai Way. Il governo ha ribadito che vuole detenere la maggioranza di Rai Way, ma ricordiamo che proprio la scorsa settimana il numero uno di Towers, Barbieri, aveva detto che la società non accetterà una quota di minoranza in Rai Way senza detenere poteri di governance. Insomma, anche lì siamo totalmente in alto mare. Poi semmai va rilevato quello che è stato già detto, che Pirelli è continuato a salire più 0,78%, allontanandosi dunque dal prezzo messo sul piatto da Cianciana, e i titoli si attestano a 15,58 euro per azione. Contro un'offerta di un'OPA a 15 euro per azione. Ancora tra i titoli, Terna più 0,70, Generali più 0,70, Banco Popolare più 0,70%, Telecom più 0,60 come Finmeccanica e Snam, Luxottica più 0,50. Chi ha perso oltre a World Duty Free, Tod's meno 0,90%. E invece migliori e peggiori in assoluto, primi sui motori più 13%, Jux più 9,96%, Pininfarina più 9,44%, Fidia più 8,80%, fronte opposto invece World Duty Free appunto, e poi MacLink meno 6,50%, TAS meno 4,45%, Tech Value meno 4,21%. Grazie, l'onore Michele, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Are you with me? Are you with me? Allora, Barisoni è il mio mito, ma come si fa ad attaccare Landini per una piccola gaffe sulle leggi truffa della supercazzola e non attaccare moralmente un tirannosauro come Ciucci? Ora, mito o non mito, a me dispiace che Landini va attaccato perché non è una piccola gaffa, abbia pazienza. Se il segretario della FIOM confonde la decontribuzione che il governo ha messo in finanziaria e vale da gennaio, e quindi i dati di gennaio e febbraio sulle nuove assunzioni sono fatti a tempo indeterminato, sono fatti col vecchio contratto e non col Jobs Act, che non c'entra nulla perché parte dal 6-7 marzo per essere precisi, e dice che quelle assunzioni sono state fatte perché c'è il Jobs Act, non c'è, no, sono state fatte perché c'è un vantaggio sul carico contributivo fino a 8.000 euro all'anno, ok? Ma come fa il segretario della FIOM a sbagliarsi su questo, non sapere la differenza tra Jobs Act e decontribuzione, che vale solo per il 2015, cioè per i contratti fatti nel 2015? Ha un potere per 3 anni, ma per i contratti fatti nel 2015. Poi che non abbia attaccato moralmente Ciucci, abbiamo detto penso 6-7 volte durante l'intervista che dal punto di vista legale era tutto normale, ma dal punto di vista dell'opportunità era tutto tranne che normale. Non so cosa devo fare, passare così agli insulti. Allora, restiamo sulla borsa invece, prima Jux e poi World Duty Free. Perché? Perché World Duty Free era già sui giornali, ma oggi c'è lo sviluppo di borsa. Jux invece oggi ha fatto il botto, più 9,96%, per le indiscrezioni di stampa sulle trattative in corso con il gruppo Richemont per una fusione con la controllata Net-a-Porter. Allora, Monica D'Ascenzo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Intanto ricordiamo cosa fa Jux, perché si è mossa stranamente anche primi sui motori, che è una società attiva nei motori di ricerca. Ma cosa fa Jux e quali sono le trattative in corso, da quello che si è capito, con la controllata di Richemont che si chiama Net-a-Porter? Jux è una dei cosiddetti e-tailer, vuol dire che è un rivenditore online di marchi, e lo è a basso costo. Invece quello che c'è da sottolineare in questo caso è che la possibile fusione avverrebbe con Net-a-Porter, che invece è una società dello stesso tipo, quindi vendite online, ma di marchi di fascia molto più alta e a prezzo pieno. Ecco, non è la prima volta che vediamo dei movimenti nel settore. In Italia sono attivi varie società, mi viene in mente Van Privé, che è un altro gruppo di origine francese, se non ricordo male, che però ha un'importante controllata qui in Italia, che vendono sostanzialmente abbigliamento, ma non solo, anche vino, anche qualunque altra cosa online. Perché il mercato premia così tanto un titolo come Jux? Cioè il 9,96% non è poca cosa, eh? È una scommessa così sul futuro? C'è un ragionamento più articolato dietro? Beh, c'è da dire che gli analisti non sono così positivi, perché appunto, come sottolineavamo prima, sono due mercati che sono differenti, quindi mettere insieme e fare massa critica in uno stesso business non è così semplice. Certo è che se dovesse essere un'operazione che, ricordiamo, è intorno al 1,3 miliardi di sterline, quindi 1,850 miliardi di euro, se non fosse tutta in contanti ma fosse in scambio di azioni, a quel punto Richmond, che è il gruppo svizzero dei grandi marchi del lusso, entrerebbe nell'azionariato di Jux. Questo forse è il valore vero di questa operazione. Quindi è più, diciamo, l'ingresso azionario, lo scambio azionario, che non l'operazione di mercato in senso stretto. Sì, a livello industriale gli analisti non vedono tutte queste sinergie che si potrebbero immaginare. Ma per inciso, come stanno andando tutte queste... È difficile fare... di tutto avrebbe un fascio, fare un ragionamento complessivo, però tutte le società che vendono online, chi appunto fasce alte di abbonamento, chi invece fasce medie, non solo di abbigliamento, ma i margini ci sono? I margini ci sono, e diciamo l'esempio più grande è Alibaba, però ha dimensioni davvero stratosferiche, è un mercato talmente ampio, come dicevi tu, che non è paragonabile a quelli di cui stiamo parlando. In Europa si è vissuto un po' su quella scia, ricordiamo che Jux ha una performance negli ultimi sei mesi positiva del 30%, e si è vissuto appunto su quella scia dopo la quotazione di Alibaba a New York, e anche Zalando, che è andata in borsa in Germania poco dopo, si pensava potesse andare così bene. In realtà queste società soffrono un po' di più, anche perché i mercati in Europa comunque sono più ristretti e rischiano... Più ristretti o più tradizionali? Tutte e due le cose, c'è una diffusione dell'online che è molto minore degli Stati Uniti, ma c'è anche il fatto che c'è una concorrenza sempre più stringente dei grandi colossi. Jux è entrata di nuovo in trattative per Net-a-Porter perché c'era un interesse di Amazon, e se Amazon fosse entrata in Europa nell'abbigliamento con i marchi di lusso, probabilmente avrebbe rischiato di schiacciare Jux. E da lì la necessità quasi di consolidarsi. E tu fai notare che poi l'interesse sia di tipo azionario, vuol dire che la borsa scommette su quello che sarà, diciamo, il livello del concambio a un certo momento, dovesse andare avanti l'operazione, quanto offriranno i francesi per la quota Jux, e da lì il titolo che si sposta, ultimo dato 23,18 euro, aperto stamattina a 21 euro, per cui insomma a 22,76 euro in realtà l'apertura, a più 9,96%. Grazie anche Monica da Scienza del Sole 24 Ore. Ultima parte di Focus Economia è da Jux, e quindi le speculazioni, le ipotesi, le trattative. L'unica cosa che Jux ha confermato, ricordo, sono le trattative in corso. Ha la certezza, perché il gruppo World Duty Free, che è il risultato dello spin-off, come dicono quelli che hanno studiato, del gruppo Autogrill, cioè è la parte del gruppo, di quello che è la gruppo Autogrill, che gestisce i duty free aeroportuali, e ne gestisce, scusatemi, 550 di duty free in 20 paesi, quindi non solo negli aeroporti, ma principalmente negli aeroporti in 20 paesi del mondo. Ha un giro d'affari di 2 miliardi e mezzo di euro e 8.000 dipendenti. Oh, cosa è successo? Sabato, edizione Schema 34, quindi Benetton, hanno sottoscritto accordi vincolanti con la Svizzera Dufry per cedere appunto al gruppo il 50,1, quindi la maggioranza assoluta, di World Duty Free a 10,25 euro per azione, con un premio del 22% rispetto, quindi un aumento del 22% rispetto al prezzo medio di World Duty Free degli ultimi sei mesi. Quanto incasseranno i Benetton? Incasseranno 1 miliardo e 300 milioni di euro. Oggi però il titolo ha perso l'8,40%, andando ben sotto l'offerta fatta dagli svizzeri, perché ha chiuso a 10,04 euro contro i 10,25 euro offerti. Simone Filippetti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Intanto, come mai il titolo va perfino sotto il livello dell'offerta? E poi vediamo di capire che cosa ha portato il Benetton a questa scelta. Per carità, 1,3 miliardi fanno comodo a tutti nella vita. Però sì, è arrivata un po' serena la cosa. Prego, Simone. Il titolo oggi, come dire, è crollato per due motivi. Il primo, c'è una componente, se vuoi, in parte psicologica, ossia il mercato si aspettava forse un'offerta, un'OPA o comunque un qualche tipo di transazione a un prezzo superiore. Ma a ben vedere, se si guardano gli andamenti di borsa, il titolo viene da un rialzo negli ultimi tre mesi del quasi il 40%, quindi in realtà va corso tantissimo. Quindi è vero che 10,2 euro a prima vista sembrano pochi, in realtà non sono pochi. E come tu hai ricordato, World Duty Free è nata appena un anno e mezzo fa in borsa, e allora quando fu fatto lo spin-off fu quotata a 7 euro per azione, quindi da 7 euro a 10,2 in un anno e mezzo, insomma, non si può dire che sia così malvagio. Quindi perché oggi è crollato? Ma secondo me la spiegazione è che gli hedge fund che si erano posizionati dentro, speculando appunto su uno scenario di M&A, quindi i fondi speculativi che scommettevano su uno scenario di fusione? Sì, hanno semplicemente venduto senza aspettare che parta l'OPA, perché se un fondo l'avrà in carico in media a 8-9 euro, diciamo, visto che a ottobre, settembre-ottobre era scesa molto, anche a 6 euro è arrivata, qualcuno che ha comprato fra 6 e 9, oggi a 10,2, anche a 10,03 vende senza aspettare 3-4 mesi che parta l'OPA. Tu dici vende anche a 10, a 10,04, esatto, che è il prezzo finale, perché ce l'ha in carico, cioè l'ha comprata a 6, a 7 euro o 8 euro, senza aspettare l'OPA. Vabbè, può essere un modo per far cassa, tanto ormai il titolo dovrebbe muoversi poco. Detto questo, come mai i Benetton vendono uno dei gioielli, nel senso che tutti abbiamo sempre raccontato, quando il titolo si chiamava ancora Autogrill e teneva dentro tutto, che la forza di quel titolo era avere un metà mercato in euro e metà in dollari, e quindi riuscire, diciamo, a controbilanciare, anche se c'era una difficoltà nei consumi in Europa, c'erano gli Stati Uniti che tra virgolette ripianavano. È un gruppo che macina soldi e giro d'affari, perché lo vendono? Questa è una bella domanda. Questa vendita sembrerebbe quasi voler in qualche modo, come dire, dare il segnale di un cambio di rotta all'interno della famiglia Benetton. Per anni Benetton hanno diversificato, investito, non hanno mai venduto i loro asset industriali. Pensare all'abbigliamento, che nonostante i risultati da anni deludenti, con bilanci in perdita e debiti, non si sono mai sognati di vendere. In questo caso invece, alla prima offerta, come dire, hanno subito venduto. È vero che, come tu giustamente ricordavi, non si dice di no a un'offerta così cash, così rotonda, però forse varrà la pena ricordare che anche quando World Duty Free fu portato in borsa a ottobre 2013, quindi un anno e mezzo fa, dopo nemmeno 20 giorni Benetton passarono subito all'incasso collocando un pacchetto del 9%, e all'epoca incassarono quasi 400 milioni. Quindi, mia opinione, mi viene da pensare che forse Benetton a Duty Free non ci hanno mai creduto fino in fondo. Nel senso che mentre Autogrill non si sono mai sognati di venderla, questa qua invece hanno, fin da quando è partita in borsa, hanno subito pensato a l'obiettivo monetizzare. Era collocare la gestione dei 550 punti vendita sparsi negli aeroporti di 20 paesi al mondo, però visto che prima Alessandro Patarotti faceva un paragone tra, insomma, Pirelli e World Duty Free, ora i paragoni sono difficili e ci mancherebbe, mentre nel caso Pirelli poi staremo a vedere, ma anche oggi abbiamo avuto una dichiarazione, anzi è presente in una lunga intervista al Corriere della Sera del presidente di China National Chemical Corporation, Reng Xiangxin, che dice: non cambieremo nulla, lasceremo tutto in Italia per quello che riguarda Pirelli, è l'azienda italiana, manterrà la sua autonomia, le sue capacità tecnologiche e il prestigio del marchio. In questo caso c'è più il rischio che, insomma, banalmente diventi Svizzera, non che vi sia un male, ma che la parte, la componente, il venir meno dell'azionariato italiano cambi completamente anche il profilo di World Duty Free? Allora, questo, come dire, è già implicito, perché World Duty Free è forse una sorta di mosca bianca in Italia, perché è un'azienda di proprietà italiana, quindi con un padrone italiano, ma di fatto 100% estera, perché in Italia non ha di fatto attività, non gestisce nessun duty free. E questo è un po' anche il paradosso, perché quello che un po' si rimproverava Benettone, che erano i padroni di uno dei più grossi gruppi al mondo di appunto negozi aeroportuali, ma non gestivano mezzo aeroporto in Italia, perché sia Fiumicino e sia Malpensa, i più grandi in realtà, e anche Venezia sono in capo ad altri concessionari, e la sede di World Duty Free oggi è in parte a Madrid e in parte a Londra, quindi di fatto era una società che era italiana soltanto, come dire, come azionariato, come, certo. Esatto, le sue attività sono tutte al di fuori dell'Italia, e quindi se vuole fare, come dire, una riflessione sull'italianità, e forse anche, se vuoi, anche peggio, perché Pirelli difficilmente i cinesi smantelleranno degli stabilimenti che hanno know-how, brevetti e quant'altro, perché non gli conviene. In questo caso si tratterebbe solo di trasportare un ufficio da una città a un'altra, perché le tue attività sono già fuori d'Italia, quindi l'Italia perde un'azienda che in realtà era solamente una delle poche che era solamente internazionalizzata e globalizzata. Ecco, tu che conosci bene gli imprenditori del Nord-Est, hai capito cosa faranno i Benetton di questi soldi? Ma ci sono molte parità aperte, secondo me una parte ne utilizzeranno per, a questo punto sono costretti a rafforzare Autogrill, che era un po' la gamba debole. Tu stesso avevi ricordato che quando fu fatta l'operazione World Duty Free era la parte più sana, perché più ricca, quella che fa più margini, quella con un business che ha più prospettive e che è più profittevole, mentre la ristorazione, i panini di Autogrill sono un business che soffre molto il ciclo, e poi un business che necessita di tantissimi capitale circolante perché ha costi fissi elevatissimi, quindi a questo punto loro sono costretti a reinvestire per potenziare Autogrill, altrimenti, come dire, rimangono con una sola gamba, che è quella un po' più debole al momento, quindi dovranno, e lo stanno in realtà già facendo, perché due settimane fa hanno inaugurato questo nuovo negozio, una sorta di Italy lì in Duomo, che venderà prodotti sfusi di alimentazione a chilometro zero e in qualche modo a chilometro biologici. Zero, quindi, a Milano è dura. Sì, chilometro zero sono un po' parzialmente zero, perché sono prodotti fatti in Piemonte, nell'area di Pollenzo, del Cuneese, quindi siamo... Va bene, ho capito che qualcosa dovranno fare, e che comunque in questo caso, mentre, ripeto, su Pirelli sono d'accordo con te, in questo caso se ne va all'estero, cioè diventa controllata all'estero e basta, un'attività che era già tutta estera. Però attenzione a dire solo controllo azionario, perché poi c'è anche la formazione dei manager all'interno e dei dipendenti. Grazie comunque a Simone Filippetti. Grazie a voi. Molti messaggi anche su questo, non ce la facciamo a leggerli tutti. Io posso solo augurarvi una buona serata e darvi appuntamento a domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.